con Marco Giovenale per parlare del festival di là dal fiume al dodicesimo municipio di Roma, organizzato e curato da Teatro in Scatola. Marco, ben trovato. Grazie dell'ospitalità. Ci racconti? Sì, questo è il secondo anno di questo che possiamo chiamare sia Estera che Raspegna. Mi sembra una bellissima serie di iniziative. Io sono un ospite, quindi ne parlo come tale. Probabilmente non so entrare nel dettaglio di tanti eventi, ma sono tanti, appunto, e belli. L'anno scorso più o meno occupavano, come quest'anno, diversi luoghi. Cioè, l'organizzazione è quella del Teatro in Scatola, che ha avuto per lungo tempo sede nella Lungotevere degli Artigiani, e però in questo caso, come appunto nel caso dell'anno scorso, il teatro e le iniziative organizzate dal teatro, che non sono affatto solo teatrali, ma sono anche musicali, di cinema, di poesia, di arte e di passeggiate anche, si spostano per la città e in questo modo prendono un po' ad esempio varie iniziative che sono state dei momenti d'oro della tradizione dello spettacolo a Roma, anche della ricerca a Roma. Nel testo di presentazione, se ti capita di incrociare le vede, si parla di Simone Carello, ovviamente, con le sue iniziative, e anche di Fabio Sargentini, che ha qualche volta spostato la sua galleria Lattico, oppure le iniziative dell'Attico in giro per Roma, tra cui anche in un caso in un battello. Quest'anno, tra l'altro, ci sarà anche una lettura di testi su un battello. Allora, saranno 12 gli eventi, mi dicevi? In differenti spazi urbani. In Sì, 12 eventi in 11 luoghi, 11 luoghi. sostanzialmente. Per dire, faccio qualche esempio, non so, a Piazza Flavio Biondo ci saranno praticamente un duo di sassofoni, quindi musica contemporanea, così come ci sarà un'installazione sonora il 3 settembre a cura di Luca Venitucci a Via Ripente. Poi a Via Giovanni da Castel Bolognese, che è vicino al Lungotevere degli Artigiani, ci saranno due iniziative diverse, una legata al teatro, un'altra invece legata al dialetto romanesco, curata da Paolo Morelli, con la musica di Paolo Mauro Varrone. Poi ci sarà una proiezione di un cartone animato, di un cartone di Allegro Non Troppo, di Bruno Pozzetto, e in realtà viene presentata la parte musicale a cura di Francesco Cuochi. Questo succede a Largo Ascianti, quindi a due passi dal Vigil e dalla parte dall'altra dal storico Target Moretti. Perché dire, poi appunto c'è questa iniziativa a cui partecipo anch'io, di lettura di testi sperimentali in un battello che parte da Ponte Marconi, e più a me ci saranno Silvia Tripodi e Michele Zapparano. E ecco, ne ho detti molti, sono una lettura di poesie di Ivan Talarico, sempre in Via Giovanni da Castel Bolognese. E quindi ecco, cioè, i luoghi sono molti, Portuense, Santa Maria in Cappella, poi ci sarà un'escursione in bicicletta lungo il Tevere, per dire, tra le varie iniziative. Tutte quante sono iniziative tra l'altro gratuite e molto rilassate anche, ecco, questo vorrei dire, non c'è nulla di strepitosamente, come dire, nulla che non faccia in qualche maniera tentativo di sintonia con il clima ancora estivo, che il gioco porta, e per fortuna ancora un po' ci proviamo a vivere. Si tratta di una seconda edizione. Come era nato tutto e quali sono le sue priorità, le sue caratteristiche di base? Nato anche dalla possibilità che il Comune dava insieme e che il Teatro Scatola ha opportunissimamente raccolto, di un bando appunto per proporre qualcosa da inserire nel quadro dell'estate romana, legata in particolare a luoghi specifici non già segnalati come tradizionali, come storici, quindi luoghi particolari. Non so, per esempio la stazione Trastevere non è un luogo dove normalmente si assiste a un concerto, a uno spettacolo teatrale. Ecco, invece lì portare alla città, ai cittadini, alla città, qualcosa di specifico, di particolare, di altri luoghi, portarlo lì in un posto dove uno non se l'aspetta. E questa è stata l'idea, ed è stata un'idea positiva sia dal punto di vista della proposta, che appunto nel bando si ventilava, sia dal punto di vista dell'intelligenza, della sensibilità del Teatro di Scatola di cogliere questa iniziativa e di fare delle proposte. Il Teatro di Scatola, composto sostanzialmente da Lorenzo Ciccarelli e Gabriella Longoni, sono stati molto, molto in gamba anche nel mettere insieme iniziative molto diverse. Loro vengono da una tradizione e da un'ospitalità molto generosa e molto lunga, di molti anni, al teatro di ricerca, ma anche alle scritture di ricerca, alla musica sperimentale, e sono stati quindi è anche in grado questo stesso tipo di lavoro che loro hanno sempre raccolto all'interno del loro teatro di portarlo all'esterno e addirittura di, per due stagioni, speriamo anche che ce ne siano altre, di donarlo alla città. Ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Assolutamente sì, allora innanzitutto l'email del Teatro in Scatola che è info@teatroinscatola.it, attaccato, ovviamente il sito è teatroinscatola.it, è possibile anche contattare il teatro sia su Facebook che su Twitter, sul sito dell'Estate Romana si trova tutto lui. Sicuramente tutto il programma, ma digitando anche in rete semplicemente su Google si trovano un'infinità di informazioni. Chi vuole può anche cercare me e chiedere qualcosa a me, ma come ripeto, io sono un ospite, anche se un felicissimo ospite di questa iniziativa. Seconda edizione del Festival di là dal fiume, dal 25 agosto al 4 settembre, a cura di Teatro in Scatola nel 12° municipio di Roma. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli ospiti, Marco Giovenale. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie al lupo e grazie a voi dell'ospitalità e dell'ascolto. Ciao.